immobile, qual più mal vento muta d'accento, egli pensiero sempre un amabile leggiadro viso in pianto in riso, menzognero la donna è mattin qual più mal vento muta d'accento. Qual più mal vento muta d'accento.